America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, avete sentito questa musica romantica, ci riporta il romanticismo di un tempo e la colonna sonora di La La Land, film che ha sbancato letteralmente ieri sera ai Golden Globe Awards, i premi della stampa straniera di Los Angeles. Pensate, questo film di cui vi parlai una decina di giorni fa, elogiandolo molto, devo dire, incoraggiandovi ad andarlo a vedere, ha vinto 7 premi, tutte le nomination per cui era in corsa, che è record storico. Tra l'altro il regista, che è stato poi anche l'autore della sceneggiatura, Damien Chazelle, un giovanissimo autore, ha vinto 2 premi, pensate, sia per la sceneggiatura che per la regia: miglior attore, migliore attrice, Ryan Gosling miglior attore, Emma Stone migliore attrice. Insomma, un grande successo, una festa come sempre molto divertente. Per il film drammatico ha trionfato Moonlight di Barry Jenkins, premio per la migliore attrice andato a Isabelle Huppert per Elle, e miglior attore, sempre drammatico, a Casey Affleck, fratello di Ben Affleck, tra l'altro, per Manchester by the Sea. Televisione, la migliore produzione televisiva è andata a The Crown. Qui la novità qual è? È che The Crown è stato prodotto da Netflix, quindi non è una delle grandi reti televisive americane, ma è una produzione che nasce su internet, su un prodotto internet. Fra gli altri premiati, Billy Bob Thornton come miglior attore per una serie drammatica, Golia, premio per il miglior film animato è andato a Zootopia. Ecco, questa è un po' una carrellata dei premiati, però in questa serata c'è anche lo spettacolo. Il presentatore, bravissimo, devo dire, è stato Jimmy Fallon, che conduce il programma serale, il programma notturno sulla NBC, al Tonight Show. E a parte l'attacco, devo dire, molto duro a Trump che ha fatto Meryl Streep, che ha ricevuto il premio per la carriera, un attacco molto mirato in cui ha parlato di stampa, di Hollywood e di stranieri. Dice, queste tre categorie oggi sono sotto attacco in America. Speriamo che non duri troppo a lungo. Fallon ha invece paragonato Trump al tirano della serie fantasy Il Trono di Spade e ha detto chissà cosa sarebbe successo se Joffrey fosse sopravvissuto. Dice, lo scopriremo fra 12 giorni, cioè il 20 gennaio, quando Donald Trump diventerà presidente degli Stati Uniti. Ma sentiamo un altro passaggio, secondo me simbolico, di Jimmy Fallon. Of course, as always, the ballots for tonight's Golden Globes were carefully tabulated by the accounting firm of Ernst & Young and Putin. Ecco, avete sentito questa battuta straordinaria? Dice, certo, ci sono sempre le votazioni quei Golden Globe, questa sera sono registrate con attenzione e accuratezza dall'agenzia per la certificazione Ernst Young and Putin. Ecco, aggiunto Putin alla Ernst Young. Non si parla d'altro, si parla solo dell'intrusione di Putin nella politica e nella cultura americana. Fallon scherza, però l'escalation sul piano istituzionale contro l'accaraggio russo sta crescendo di ora in ora. Sentiamo cosa è successo ieri mattina con intervista su Meet the Press NBC di Lindsey Graham e di John McCain. We're going to introduce sanctions that are bipartisan, that will hit them in the financial sector and the energy sector where they're the weakest, and we're going to give President Trump an opportunity to make Russia pay a price. Ecco, Graham e John McCain sono due dei più importanti senatori repubblicani, ciascuno per la sua commissione sta seguendo lo scandalo dell'accaraggio, e Graham ha detto: tutti noi democratici e repubblicani dobbiamo condannare quello che la Russia ha fatto, questo è quello che faremo io e il senatore McCain, introdurremo sanzioni ulteriori molto dure che colpiscono Mosca sul piano finanziario ed energetico, che sono poi i punti più vulnerabili, daremo l'opportunità a Donald Trump di far pagare un prezzo salato a Mosca per aver influito nel nostro processo democratico. Ecco, per Donald Trump la situazione si complica, il suo capo di gabinetto ha detto che il presidente entrante ha accettato i risultati del rapporto stilato degli 007 e l'idea è che finirà per compartimentalizzare il rapporto con la Russia, cioè si occuperà del leccaraggio, però d'altra parte cercherà di avviare un dialogo. La partita è decisiva Perché se Trump ignorerà il Senato, le preoccupazioni istituzionali, beh, si diceva negli show di ieri mattina che il nuovo presidente potrebbe portare l'America sulla strada di un nuovo ordine in cui la Russia potrebbe diventare un alleato privilegiato di Washington rispetto alla NATO. Ecco, io non ci credo, non credo che si arriverà a quello, ma il semplice fatto che in America se ne parli, devo dire, non è certo rassicurante per l'Europa. Ci sarebbero meglio altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vi dia più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Come vi dicevo, La La Land ha trionfato, ha vinto non solo per la miglior colonna sonora, ma anche per la migliore canzone originale. E dunque sempre di Justin Hurwitz, di nuovo un giovane che ha debuttato ai Golden Globe, City of Stars, di nuovo. Nuovo canzone romantica duetto di Ryan Gosling ed Emma Stone. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling, a voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is this crazy feeling. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!